Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate con un motore di ricerca o sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Allora, alcuni giorni fa ho ricevuto, tra i tanti che un giornalista ogni giorno riceve, un comunicato stampa per via telematica di Sonia Alfano. Voi sapete, molti di voi credo lo sappiano, eurodeputata per l'Italia dei Valori. E Sonia Alfano, che combatte moltissime battaglie nella sua Sicilia contro la mafia, segnalava il caso della scuola Giovanni Falcone allo Zen di Palermo. Devo dire che quando in automatico l'occhio cade sulla parola Giovanni Falcone, martire di questo Stato e direi stella polare di tutti i giornalisti per i suoi valori, per i suoi principi, se così non fosse ci sarebbe da tremare. Ecco, quando leggo questo nome si accende in me una spia. Sono andato a leggere il comunicato stampa e devo dire sono rimasto indignato. L'indignazione vorrei trasmetterla anche a voi, cari radioascoltatori, perché parliamo di un caso che può sembrare apparentemente piccolo. In realtà vi assicuro è un fatto di una gravità enorme. Di cosa parliamo? Di questa scuola, appunto, in un quartiere difficilissimo, il quartiere Zen di Palermo, dove questa scuola, che è intitolata La memoria del giudice Falcone, è stata più volte presa d'assalto. Ve la faccio breve. Diciamo che è stata distrutta ultimamente, mobili, arredamenti, esterni, disegni dei bambini, tutto quello che è il segno esteriore ed interiore della rinascita civile e sociale di questo quartiere è stato più di una volta distrutto. Ed allora io voglio tenere alta l'attenzione su questi piccoli significativi segni di mafiosità, e per fare questo dedico due puntate. Oggi ne parliamo con chi li vive tutti i giorni, vale a dire con una donna coraggiosa, Milena Gentile, che fa parte del movimento Zen, dove Zen sta per Zona Energie Nuove, è un acronimo. Buongiorno, dottoressa Gentile. Buongiorno. E ne parliamo con il altrettanto coraggioso preside di questa scuola, Domenico Di Fatta. Buongiorno, preside. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io direi di partire da una frase, signor preside, che mi ha inquietato, di una sua intervista che ha rilasciato recentemente, che io ho tratto da un sito internet che è siciliainformazioni.com, quando lei dice che la scuola di fatto è l'unico presidio dello Stato in questa zona. Questa frase, cari radioascoltatori, fa venire i brividi. Ad una persona normale farebbe venire i brividi. Cioè l'educazione, la formazione, la scuola è l'unico presidio dello Stato. Ma è davvero così, signor preside? Sì, sì, di fatto è davvero così, perché al di là della scuola, allo Zen non c'è assolutamente niente. Non c'è una stazione dei carabinieri, non c'è una stazione dei vigili urbani, non c'è assolutamente niente che rappresenti lo Stato. Lo Stato poi è, devo dire, poco presente anche nell'aiuto che dovrebbe darci, perché a parte questi ultimi giorni in cui molti si sono mobilitati a venire a darci aiuto e sostegno, poi normalmente nella quotidianità siamo abbandonati, ma la quotidianità da noi è che il genitore entra dall'esterno per farsi giustizia e, come la cronaca giornalistica, va in classe e picchia il professore. Qua noi avremmo bisogno di un presidio fisso di polizia, di carabinieri, anche dell'esercito, che per il progetto Strade Pulite per ora, per un altro anno, gira per le città. Io credo che sia più importante avere un presidio di legalità all'interno di questa scuola per tutelare i professori e per tutelare anche quei genitori e quei bambini che vengono a scuola per studiare. Ecco, sono parole francamente sconsolanti quelle che lei ci riferisce, e io vorrei ricordare anche un'affermazione, una frase di una delle sue professoresse quando recentemente ha dichiarato: noi facciamo educazione a 360 gradi, l'istituto rappresenta un'occasione per togliere dalla strada i bambini che anche nelle ore non scolastiche avrebbero potuto cogliere l'occasione di crescere facendo sport. È la professoressa Sandra Iandolino, signor Preside, che parla. Ecco, sempre lei recentemente, signor Preside, dichiara che la sensazione che lei ha avuto nell'ultimo atto vandalico è che non fosse stata la solita ragazzata, se tale può definirsi qualunque presa di mira vandalica di una scuola, ma che fosse qualcosa di più mirato, di più studiato, di pianificato quasi. Ecco, allora, perché ha avuto questa sensazione, signor Presidente? Ho avuto questa sensazione perché gli atti vandalici comuni purtroppo li viviamo abitualmente. Tirano il sasso sul vetro e lo rompono, o scavalcano, entrano in classe e buttano il materiale degli armadi per terra. Ma stavolta è stato tutto pianificato, perché prima sono riusciti a oscurare le telecamere, perché quando è venuta la polizia scientifica per cercare di vedere cosa era stato registrato, hanno visto che le telecamere non funzionavano da una settimana, erano state disattivate. E poi l'incendio che è stato appiccato alle due aule della scuola materna è stata una cosa pianificata bene, perché hanno chiuso le due aule, le hanno sigillate con il nastro isolante e lo scotch. Quindi una azione, appunto, come abbiamo sentito, pianificata in ogni particolare. Ed allora adesso veniamo a chi vive il territorio tutti i giorni. Milena Gentile, lei ha ascoltato le parole del preside. Io non saprei cos'altro aggiungere, alzo le mani di fronte a quello che abbiamo sentito, ma suppongo che voi invece non facciate la stessa cosa, le mani non le alzate? No, anzi, questo il nostro comitato, questo movimento Zona Energia Nuova, nasce proprio all'indomani dell'attentato, su idea di Gaetano Guarino, intorno al quale si è riunita gran parte della società civile, anche abbiamo avuto la partecipazione della politica, in parte la politica di opposizione, diciamo, all'attuale amministrazione ecco, comunale. Io lascerei da parte la politica, Gentile, ma non perché io voglia fare censura, ma perché francamente non credo più a questi partiti parolai. Quindi andiamo a vedere quello che fate voi tutti i giorni concretamente. Allora, concretamente questo movimento nasce perché per sollevare il caso Zen, perché non so se tutti lo sanno, ma lo Zen, in particolare lo Zen 2, è in uno stato di abbandono già da anni da parte dell'amministrazione comunale, nel senso che è un quartiere che è stato occupato inizialmente dagli abusivi, quindi non dispone neanche di attrezzature, di servizi, è in qualche modo la qualificazione ambientale è anche un problema iniziale, oltre al fatto di cui parlava il preside, del presidio della legalità, perché è una terra di nessuno. Ora, questo movimento mira principalmente a intanto supportare la scuola, proprio per la sua valenza intanto concreta di presenza, di presidio della legalità nel quartiere, e poi per la sua presenza simbolica nel territorio, perché non è accettabile per una società civile che si abbandonino interi quartieri assolutamente a uno stato di anarchia e di totalmente trascurato come lo Zen, abbandonato e chiaramente preda poi della criminalità organizzata. Assolutamente d'accordo. Ecco, vorrei chiederle questo, signora Gentile. Prima abbiamo sentito il preside che faceva riferimento alla presenza dell'esercito, una presenza estemporanea, una presenza criticata, una presenza criticabile, un qualcosa che serve sicuramente per tappare le falle ma non risolvere definitivamente. Ecco, voi come la vivete questa presenza dell'esercito? Allora, intanto va detto, come ha precisato anche il preside, che questo è stato un vero e proprio attentato. Oltretutto stamattina c'è stata un'ennesima intimidazione con la costruzione di una baracca nei pressi della scuola, con un tavolinetto dei bambini della scuola materna apparecchiato, ed è chiaro che queste sono intimidazioni vere. Provocazioni. Ora, io non la vedo negativa la presenza delle forze dell'ordine che presidino la scuola. Beh, un conto le forze dell'ordine, un conto l'esercito però, Beh, forse l'esercito magari è un po' eccessivo, ma sicuramente la presenza dello Stato, perché ecco. Quartieri come lo Zen proprio, decidono proprio di questo, la presenza dello Stato. Questo disinteresse anche da parte dell'amministrazione comunale è gravissimo, perché è simbolico, fortemente simbolico. Intanto, dopo un attentato del genere, l'effetto qual è? Che la popolazione, gli abitanti, hanno paura ad iscrivere i bambini in questa scuola. Quindi questo che significa? Che conseguenze può avere? Chiaramente l'abolizione di alcune classi, se non addirittura dell'intero plesso scolastico, il che ci sembra di una gravità estrema, perché si paventa, non è così astratto o fuori dalla realtà questo nostro timore. Assolutamente, io vorrei sottolineare quello che lei ha detto tra le righe, vorrei esaltarlo in un certo qual modo, vale a dire forse la volontà da parte di chi compie questi atti di lasciare simbolicamente e diciamo di fatto un intero quartiere nell'ignoranza formativa, nell'ignoranza sociale, nell'ignoranza culturale, cioè la scuola fa paura. Certo, fondamentalmente la scuola fa paura, perché la scuola intanto recluta bambini, soprattutto se è una scuola ben organizzata, con un dopo scuola, con attività anche pomeridiane, sottrae i bambini dalla strada, quindi sottrae sostanzialmente manovalanza alla criminalità. Ecco, io vorrei interromperla un attimo soltanto perché, ahimè, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Quindi io la ringrazio, gentile, così come ringrazio il preside di Fatta della scuola Giovanni Falcone, quartiere Zen a Palermo. Vi lascio, cari ascoltatori, intanto ricordandovi che domani torniamo su questo argomento, e poi con una frase che ripeto più volte, che non è la mia, e vale a dire che la mafia si sconfigge con un esercito di insegnanti. Non è la mia, è di Gesualdo Bufalino, uno dei più grandi scrittori siciliani. Da Roberto Caluno una buona giornata a tutti, grazie in regia Filippo Reggi e in studio Laura Fagin, e a risentirci domani.